piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. E ora, abbiamo capito che quest'anno per i Veneti è un anno importante, perché il 22 di ottobre andiamo a votare a un referendum. E ora facciamo un ripassin e lesemo il quesito. Vuoi dichiarare la propria unione al Regno d'Italia sotto il governo monarchico costituzionale del re Vittorio Emanuele II e dei suoi successori? Oh oh, mi sono sbagliata. Perché sto qui non è il quesito del 22 di ottobre d'estano. Sto qui è il quesito del 22 di ottobre del 1866. Perché, non so se savi, ma la data del referendum autonomia non la si sta ciapà a caso. Sega scelto è il dì nel quale 151 anni fa i Veneti iga fatto un altro importante referendum, il quale iga varia dovuo decidere se andare con l'Italia o no. Nel senso, 151 anni fa, l'altro dì. Parliamo di autonomia, parliamo di referendum, parliamo di secessione. Ne parliamo anche perché l'abbiamo viste tutte le immagini, soprattutto nei social, nei siti dei giornali, però alla fine anche i giornali hanno parlato, i telegiornali hanno aspettato un po', della polizia spagnola che trascinava per i capelli le signore, sbatteva per terra le vecchie, faceva insomma una sorta di azione violentissima nei seggi catalani per delle elezioni o referendum che in realtà non aveva un'autorizzazione legale. Ma questo adesso non vogliamo entrare negli spazi della Spagna e quello che sta accadendo. Sta di fatto che si è visto che una parte di popolazione era fortemente decisa, tanto da portare i bambini ai seggi, da buttarsi per terra, da fare resistenza passiva di fronte a dei soldati in assetto di combattimento, alti, neri, con gli elmetti come su Guerre Stellari, con i manganelli, prendevano, sbattevano, insomma c'è un momento particolare, la Spagna sta attraversando un momento particolare, un braccio di ferro che ha radici molto lontane, ma adesso deve succedere qualcosa, o decide la generalità catalana che si stacca dalla Spagna, diventano autonomi e la Spagna chissà cosa farà, o se no succede che naturalmente ci sarà un'escalation che ancora in questo momento è imprevedibile. Ecco, però torniamo al nostro paese, avete sentito? Questa è Ilaria Brunelli su YouTube che parla del referendum veneto. Ci sarà il 22 ottobre un referendum, naturalmente non ha queste tinte, non sono seggi illegali, non andranno i poliziotti o l'esercito a manganellare i veneti e i lombardi per togliere quei seggi, no, voteranno tranquillamente, non succederà una mazza qualunque cosa votino, ma comunque sia sarà una dimostrazione se quelle due popolazioni vorranno staccarsi. Ma entrando nel vostro specifico personale, voi sareste disposti comunque anche voi di mettere un bacchetto con delle schede e dire vogliamo separarci da qualcosa? Ma qualcosa potrebbe essere, che ne so, un quartiere di Roma vuole separarsi da Roma, visto che tutti vi lamentate, le spazzatura, i topi, le pantegane. Benissimo, Parioli si vogliono staccare dal resto di Roma, oppure la Garbatella se ne vuole andare dal resto di Roma, perché magari hanno un punto di vista diverso. Ma allarghiamola ancora o restringiamola se vogliamo. Nel vostro quartiere magari c'è una tale via che ci sono le signore che portano i cani a fare i loro bisognini sui marciapiedi, quindi quelle non dovrebbero far parte del quartiere. Stacchiamoci da quel quartiere, da quella via, stacchiamoci nel condominio dal quarto piano, che sono gente che strilla, che urla, insomma immaginate di avere carta bianca per potervi separare da ciò che volete. Sarete disposti a fare una propaganda individuale e personale per portare le persone a votare, visto che è facile votare, basta mettere uno scatolone, si stampa come ha fatto a Barcellona, le schede ci si stampano a casa, stampatevi la scheda a casa e portatela qui, votate e ci separiamo. Poi si porta lo scatolone con le schede, si dice tante persone hanno votato, questa è la volontà popolare. Ecco, in cosa sareste disposti a far valere la volontà popolare per staccare qualcosa da qualcos'altro o per staccarvi voi da qualcos'altro? 800240024. È arrivato il momento, proprio insieme ai due o tre appuntamenti referendari europei appunto in Lombardia e Veneto, è arrivato il momento anche qui per la Sardegna di ripresentare il referendum. cresciuta in termini appunto di volontà indipendentista, anche da parte di chi effettivamente non sa di esserlo. Quindi assolutamente la cittadinanza, la popolazione sarda ha una coscienza molto più forte in senso indipendentista che non 5 anni fa. Noi abbiamo presentato il lancio del referendum. Certo, perché no? E allora se lo fanno i lombardi veneti, perché noi sardi? Infatti questa è Cristina Puddu che anche lei dice: pigliamo l'occasione, anche noi facciamo un referendum. Perché la Sardegna si stacchi, è anche facilitata, che è già staccata, è già un'isola, quindi se vuole fanno sbarramento e traghetti, fermi, non atterrano più l'aereo, la Sardegna è bella che è separata. I sardi vogliono separarsi dall'Italia, e va bene, lo fanno, hanno una loro lingua, una loro autonomia, i loro costumi nazionali, il pane carasau, tutte le cose che non c'è nel resto d'Italia, quello fa parte comunque della Sardegna. Vorrei degli esempi diversi, più inediti, meno conosciuti, facile dire. Da cosa vorreste staccarvi? Dove vedete voi un desiderio di autonomia, di staccarsi da qualcosa che sentite come un cappello molesto alla vostra autonomia? Guardate, potreste anche dire: mi voglio staccare dalla mia famiglia. Fate un referendum, mettete insieme moglie e figli, dite chi si vuole staccare e vedrete che potete avere delle sorprese. 800240024, Giulio, buongiorno. Salve, buongiorno. Da cosa si vuole staccare, da cosa vuole autonomia lei? Allora, guardi, per me il perimetro del mio stato autonomo è la mia stessa persona. Quindi io vorrei staccarmi dalle rotture di scatole, dalle egemonie. Ma come fa a votare da solo? Cioè, autovota e autoelegge il quorum massimo. Il totale dei voti hanno dato ragione a quello che il suo volontà. Ma io la sto ad ascoltare, mica che non la sto ad ascoltare. Guardi, ho fatto una votazione dove l'unico votante ero io e ho deciso di intraprendere una carriera che mi possa portare a un'economia autonomia economica importante, in modo tale da non dover più stare alle lamentele del proprietario di casa perché sei in affitto, alle prescrizioni del capo perché lavori in un'azienda. Quindi questa è la mia idea di ma come sta muovendo? No, è interessante. Lei vuole essere autonomo, quindi non vuole dipendere da nessuno. Vuole casa sua, non vuole, penso, immagino, legami di tipo sentimentale, perché non c'è peggior dipendenza che quelli. Vede, la trovo impreparato però su questo. Lei si vuole liberare di un padrone di casa e mi sta bene, casa autonoma, comunque tanto deve pagare le tasse, l'affitto, il condominio, con qualcuno deve comunque avere a che fare, perché l'autonomia totale è impossibile quando si vive in un consorzio umano. Si vuole liberare dai vincoli di dipendenza professionale, essere autonomo nel lavoro, benissimo, sarà sempre dipendente dai suoi clienti, dai suoi pazienti, dalle persone a cui presta un'opera di lavoro, anche se lei è un creativo. I creativi sono i peggiori frustrati, perché fanno un bellissimo progetto, vanno ignoranti, cioè questa è la mia campagna, dice no, non va bene così, voglio una cosa, ci mette mia nonna, mia zia e il mio cagnolino, e si suicida il creativo. Quindi, però il terreno in cui è più difficile essere dipendenti è perché si fanno i conti con la propria interiorità e con i propri limiti, è l'indipendenza sentimentale, la messa fra le clausole del referendum. Onestamente no, perché quella è una interdipendenza con un'altra persona dove abbiamo molta più possibilità di scelta. Ma si figuri, quando ha le sue palle incatenate in un lacciuolo chiodato, dove va? È meglio avere un padrone di casa con cui si negozia, meglio avere un capo da cui ci si può licenziare. Ci rifletta, Giulio, perché non è sufficientemente ancora pronto per la totale indipendenza. Lucio. Buongiorno. Indipendente da cosa? Attraverso quale meccanismo di chiamata popolare a esprimere un'opinione? Ma l'indipendenza si conquista ogni giorno, ognuno di noi, con le nostre azioni. Sì, ma siamo concreti, non facciamo filosofia. Ma infatti io quello che volevo dire era mettere in guardia da questa ondata di indipendenza, perché si comincia con la Catalogna, si prosegue con la Sardegna, si va al Veneto. Allora anche la Lombardia. La Lombardia, sì, ma uno vale l'altro, che è tutto legittimo, ma ci si scorda delle nazioni e le nazioni devono intervenire, altrimenti... Beh, catalani è proprio quello che voglio, non voglio assolutamente far parte della Spagna. Come si fa a chiedere l'autonomia per rimanere poi all'interno dell'Europa e stare sempre con la Spagna in un contesto europeo? È l'assurdo. Già è difficile, c'è l'Europa così com'è, figuriamoci l'Europa di tener conto delle piccole realtà parcelline. Ma non credo che si pongano problemi in questo momento. In questo momento, secondo me, per il poco che conosco, parte la questione catalana, questione antichissima. I catalani non si sentono spagnoli, sono delle differenze radicali di cultura, di lingua, di punti di vista, e via dicendo. È chiaro che hanno preso un'occasione al balzo, perché era un referendum che non aveva nessuna legittimazione. Ha detto: da oggi decidiamo di dire che vogliamo essere autonomi, poi vedrete. E Madrid ha risposto in maniera molto dura, ha detto: no, ragazzi, è contro la legge. Non potranno mai darla a questi livelli, altrimenti ci ritroviamo con l'Europa del Medioevo, dei feudi. Quale rischia che esploda una guerra civile? Perché visto, l'operazione è stata importante. Puoi essere autonomo da Terni, perché sono di Perugia, sto esagerando, che non mi interessa. Beh, non sarebbe mica male, essendo anch'io di Perugia, onestamente, togliersi Terni. Non sarebbe male. Perché proprio ci capiamo da questo punto di vista, ma è l'assurdo. In un mondo dove io direi che anche, però direi che se uno potesse, anche Ponte Felcino, Ponte San Giovanni e Ponte Pattoli andrebbero scorporati dalla provincia. Assolutamente, perché i ponti possono fare, no? Aprono una strada alle invasioni, i ponti. Assolutamente. E poi le porte, Portasole che c'entra con Perugia? Niente, perché via, viene di qua da Corciano e dicono, certo, no, Corciano. E le donne di Corciano si sa che lo sta fanno. Siamo all'assurdo, e non ho sentito soltanto, guardando la televisione e anche i vari telegiornali, persone che sostengono l'indipendenza, ma non si rendono conto di quello che questo fatto può portare. Vogliamo fare un'analisi mediatica. Mediaticamente il governo centrale ha perso, perché sono stati bravissimi, porti le donne, le vecchie, i bambini, si buttano per terra. È chiaro che fa molto, la signora col sangue nel pozzo di sangue anziana, è chiaro che fa effetto, la donna trascinata per i capelli fa effetto, la borsetta arancione lanciata con disprezzo sulla folla fa effetto, il signore col bambino sulle spalle col marsupio che va contro la polizia in assetto da guerra con un bambino sulle spalle, sembra proprio che voglia portare una giovine vittima sull'altare dell'indipendenza, lei capisce che poi questa è molto mediatica come guerra, ma se la sentirebbe lei di fare la stessa cosa? Se l'immagine dei Ternani con i bambini in braccio che vengono su dalla E7 alle porte di Perugia, non so, ci sarebbe una reazione. Il problema è che comunque se uno vuole l'indipendenza a questi livelli deve essere pronto a mettere in conto il sangue. L'indipendenza contro un governo centrale è sempre costata sangue, questo è posto. Benissimo, siamo pronti a versare il sangue per l'indipendenza? Matteo, buongiorno. 800 24 0024. No, non sono pronto. È chiaro. No, vabbè, adesso parte gli scherzi. Io non sopporto i separatisti, quindi dicevo, mi separerei da loro. Ho sentito le ragioni dei romagnoli che si vogliono separare dagli emiliani. E quali sono le ragioni? Dov'è? Sul Lambrusco o sulla Piadina? No, ma non me le ricordo, non le voglio sapere. I veneti, i lombardi, da una vita che li sento. Poi una volta io inorridivo quando sentivo i leghisti, poi ho scoperto che a sud c'è gente che ce l'ha col... Sono stato proprio anche maltrattato, no, da persone del sud, perché tu sei del nord, parli come un ubabascione, perché lì Savoia hanno no, io questa cosa non lo sopporto. Matteo, ho questa grande botta di culo, sono nato a Perugia che sta al centro, quindi posso guardare e sorridere, capito? Ho parlato mio concittadino fra Perugia e Terni, cioè chi sta al centro ride di questo, in effetti non si sente assolutamente condizionato da nulla, da nessuno, però è vero, figuriamoci. Si sente allora, Terrone, dire, del centro mi piace uno di Bergamo bassa e sente Terrone rispetto a uno di Bergamo alta, capisci? Questo è il problema. Ma dove siamo? No, è una cosa insopportabile per me. No, mi fa ridere, io ne parlo volentieri, oggi voglio capire anche i motivi. In un momento in cui, in effetti, il vero vivere concretamente l'epoca che stiamo attraversando è togliersi tutti gli orpelli e capire che in realtà, io non faccio un discorso filo boldriniano, figuriamoci che mi importa, ma tenersi abbarbicati al Trescone, al Ballo Tondo o alla Piadina, appunto, capire, ma mi sembra una cosa di altri tempi, il mondo va avanti, ma si rende conto, la Piadina, domani il kebab, va bene, ma chi se ne frega, ma viva la faccia. 800 24 0024, diamo ancora spazio ai separatisti, visto che il polso medio del nostro pubblico, la gente dice: ma pensiamo ad altro, ma che ci importa di separarci? Non è poi una cosa fondamentale, ma esiste gente che vuole separarsi. Siete disposti a versare il vostro sangue per la separazione? è divisa in due, cioè praticamente sono due città. Da una parte c'è una città civile che è la capitale d'Italia e dall'altra c'è un posto abbandonato a se stesso, che praticamente dove ormai ci stanno immigrati, i zingari e insomma tutta sta gente qua, e poi ci stanno anche alcune persone italiane che hanno deciso di rimanere lì e non se ne vogliono andare. Voi di Roma Sud siete chiaramente un po' più poveri, io lo so che prendete i mezzi pubblici, comunque è un posto pieno di mercatini, gente che si veste male, lo sapete, gente che puzza, perché chiaramente essendo la parte più povera della città tutti gli stranieri vanno a vivere lì, quindi vi trovate invasi da questi stranieri, mentre invece a Roma Nord non è che non ci sono, cioè ci sono, però si limitano ad avere quei due negozietti, stanno rintanati dentro i negozietti, cioè comunque non c'hanno sta spavalderia di andare in giro a invadere la città come capita a Roma Sud. Ecco, punto, questa è un'altra proposta di separazione di Martina Dell'Ombra, separare Roma Sud da Roma Nord, difficile capire qual è poi la linea di discrimine, non so quale possa essere, però Roma Sud e Roma Nord sono realtà diverse, quindi vantagliate. Roma Sud puzzano, a Roma Nord sono le donne con i capelli biondi, gli uomini si mettono le scarpe Hogan, Roma Sud sono molto più coatti, non lo so bene, comunque lecito comunque separarsi. Sarebbero disposti i romani Roma Sud e Roma Nord ad affrontare il manganello dei vigili urbani del municipio di Roma per impugnare il diritto a separarsi? Se sì, ditelo, siamo qua per ascoltare. 800 24 00 24, forti dell'esempio della Catalogna, quanti di voi stanno pensando questa mattina che bisognerebbe separarsi da qualcosa? Achille, buongiorno. Buongiorno a lei. Cosa propone Achille? Io molto più piccolo, non una separazione nazionale. Direi a questo punto, visto che la terra d'Otranto, la provincia di terra d'Otranto è stata indipendente dal resto della Puglia fino al 1926, quando la buonanima di Benito Mussolini ha creato province come Brindisi e Taranto, no? E l'ha inglobato in un'unica regione, e pur avendo una... Adesso Otranto in che provincia è Otranto? Otranto è provincia di Salerno. Di Palermo. La provincia di terra d'Otranto è esistita dai romani fino al 1926, quando la buonanima di... Qui lei vorrebbe l'indipendenza di Otranto? No, indipendenza. Allora, la terra d'Otranto, capoluogo di provincia, è Lecce, lo è sempre stato. È apposta, sta vicino a Lecce, infatti. Quindi Lecce è capoluogo di una nuova regione con Taranto e Brindisi, e quindi arriva fino ad Ostuni. Sì, ma Otranto, come definirebbe Otranto lei adesso? Soltanto la città di Otranto, ma anche un pezzo di spiaggia, anche i laghi Alimini fanno parte della provincia? No, direi che è un progetto un po' più ampio, più grande, diciamo che comprende tutta la provincia di Lecce. Tutta volete fregarvi il Salento allora, voi di Otranto? Tutto il Salento è Otranto? Grazie, sì, è il posto più figo. Dove vanno le romane a ballare la pizzica? Dove vanno i romani ad affittare una masseria? Vi volete prendere la meglio fetta della torta? Pigliatevi Taranto, pigliatevi. Da voi, se dobbiamo fare argomentazioni, c'è un motivo ben preciso, perché oltre che fino al 1926 erano indipendenti, avevano la loro autonomia, c'è da dire che il linguaggio è totalmente diverso. Una appartiene al gruppo dei linguisti e i baresi sono baresi. Quindi, Otranto, qual è il gruppo linguistico, per capire? Mi faccio un esempio. Il Salentini, lei è un uomo di grande cultura, no, non so. I Salentini hanno tutto un linguaggio che appartiene al gruppo siculo. Non ha niente a che fare. Sì, infatti sembra più siciliano il Salentino rispetto al pugliese. Cioè non parlano come Lino Banfi, per capire, ecco. No, e non può. Assolutamente. Mi faccio un esempio, una frase detta in Salentino e detta in pugliese. Faccio un esempio, così capiamo. Se merita veramente. Poi attenzione, c'è anche Salento Sud, Nord e Centro, che hanno delle... Beh, Otranto è Salento Sud, praticamente. Otranto è Salento Sud. Più sud di lì non c'è niente. E fino a dove arriverebbe a Nord, diciamo? Fin dove lo fa arrivare? Fino a Ostuni. Perché da Ostuni loro si considerano Salentini. Però lei si prende la parte più turisticamente usabile della Puglia, non è mica male come idea. La parte anche meno contagiata dalla mafia. Ma certo, e lì non ci sono i napoletani, perché stanno dalla parte. Gallipoli, Otranto, o dovrebbe rimanere ai pugliesi? ma alla terra d'Otranto, però... Non mi faccia rispondere, Gallipoli diventa Otranto, terra d'Otranto oppure no? Prendere un referendum, porti i seggi nelle scuole e vediamo se i vigili urbani di Lecce non interverranno, lei potrà avere via libera. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Stiamo identificando delle nuove possibilità di autonomia. Lei invece per cosa vorrebbe battersi, per quale autonomia? Mai per nessuna autonomia. Io credo molto semplicemente che la vita sia un compromesso, il compromesso legato al livello di accordo e di negoziazione. Ma mi faccia l'esempio che ci voleva portare però, Paolo, lei cosa voleva portare? Le posso portare un esempio semplicissimo sul lago di Garico, non ha più nessun senso. Ma l'hanno tolto il palo, l'hanno tolto? No, assolutamente. Quindi c'è un palo, c'è un palo al centro del lago di Garda che distingue le acque territoriali di quelli di Senzano da quelli di Garda. Esatto, assolutamente così. E su questo sono palo diritti che non hanno nessun valore. Però perché bisogna fare un referendum per ristabilire le acque territoriali di Desenzano. Ma lei pensa che ne valga la pena? Non lo so, lo sto domandando. Oggi ha senso che la Catalogna chieda di essere separata? Sì, ma qual è il limite? Questo palo non avrebbe più senso che chiedesse di essere unita all'Europa. Guardi, non parliamo della Catalogna, che è un problema di vasta portata. Mi interessa molto. Divide i diritti di pesca in ragione delle marinerie di appartenenza. E nessuno ci fa più caso adesso. Nessuno ci fa più caso, come giusto che sia, nel momento in cui l'occasione è questa. Faccio un referendum sul palo. Ridiamo diritto al palo di segnare la differenza di acque territoriali. Se invece togliessimo il palo? Magari c'è un buco come la vasca da bagno, si svuota tutto il lago. Non dica cose che mi mettono d'agitazione. Paolo l'ha detto Damiano. Togliere il tappo al lago di Garda, chissà che c'è sotto il palo. C'è un tunnel che va al centro del mondo, non lo sappiamo. Damiano, ci sono le scie chimiche, i rettiliani, non c'è di tutto. Damiano, buongiorno. Indipendenza, buongiorno, quale indipendenza lei vorrebbe, per quale indipendenza si batterebbe? Allora, io prendo al balzo quella che è stata la tua provocazione, molto, molto ardita. Da estrazione petrolifere, addirittura stavo dicendo al suo portaborse, parlavo addirittura di una valutazione di impatto sanitario che c'è stata non più tardi di qualche tempo fa in Basilicata, e si parla addirittura di morti derivanti dall'estrazione petrolifera, e sembra che questo non interessi a nessuno, sembra che in Basilicata effettivamente si possa continuare a morire così solo in nome di quello che è un presunto sviluppo, un presunto miglioramento di quelle che sono le condizioni. Ma avete, diciamo, un personaggio che vi possa rappresentare, un capo carismatico o un personaggio carismatico che possa rappresentare la Basilicata? Ma il personaggio carismatico c'è. Chi è? Però un personaggio mitologico, e parliamo dei briganti, forse i briganti dovrebbero venire. E come si chiama il brigante che potrebbe diventare il simbolo della Basilicata? Ma il brigante avigliane, si chiama Ninco Nanco, si chiama. Ah, Ninco Nanco, è il famoso Crocco e Ninco Nanco, erano i due più famosi briganti. Ma guardi, mi permetto di dirle che poco, non se la abbia male, poco documentato, perché mentre Crocco è morto in carcere nel 1900, Ninco Nanco è stato ucciso nel 1861-62, quindi il fatto Sono i due briganti più famosi del brigantaggio, Crocco e Ninco Nanco però. Però come tutte le cose, uno l'hanno preso e l'altro no, è chiaro. Crocco l'hanno tradito, l'hanno preso. Ninco Nanco è finito combattendo. Comunque questo personaggio secondo lei riuscirebbe a coalizzare la Basilicata verso una guerra d'indipendenza? Guardi, più che guerra d'indipendenza basterebbe semplicemente che si rendessero ancora più attive quelle che sono le naturali barriere della Basilicata. Non sono provocatorio. No. Perché la Basilicata, diciamo che è autosufficiente dal punto di vista energetico, è autosufficiente dal punto di vista di quello che sarà una grande risorsa del futuro, parliamo dell'acqua. Acqua che è stata comprata dalla Coca-Cola per quanto riguarda... Scusate, ma io vi faccio... Ma Rocco Papaleo in questo non potrebbe darvi una mano, che ha fatto Basilicata cost to cost? Non vorrei usare dei termini troppo forti. Ha rilanciato lui la Basilicata. Basilicata cost to cost è il film che ricorda al mondo che esiste la Basilicata. Allora, le voglio far presente che Cost to Cost è stato un progetto cofinanziato dalla regione Basilicata, una regione che permette a tutt'oggi biologici di morte per quanto riguarda l'estrazione petrolifera, permette e autorizza questa estrazione. Meccanismo di nascondere una verità scomoda, probabilmente. ma l'ha detto lui, l'ha detto. Io ho sbagliato ad accettare la pubblicità dell'ENI. L'ha detto Rocco Papaleo, non l'ho detto io. No, io pensavo che Rocco Papaleo fosse una specie di eroe nazionale, la Basilicata, ma non è così. Ma Rocco Papaleo non è assolutamente un eroe nazionale. Rocco Papaleo è semplicemente un attore che ha cercato a sportellate di farsi largo nel mondo dei film e quant'altro. Però invece magari voi poteste proporre una sorta di film storico sull'epopea di Ninconanco, sarebbe meglio, darebbe più gloria alla Basilicata forse. Guardi che Ninconanco già c'è un film storico, Li chiamarono Briganti, si chiama questo film, le consiglio di andare a vedere. Ma di qualche anno fa, di quando è? È di qualche anno fa, nello specifico dovremmo essere intorno al 90, fine secolo. Melog. La mia Lombardia è dove sono nato. La mia Lombardia è dove vivo. La Lombardia che ho in testa non vuole autorità, ma autorevolezza. La Lombardia che ho in testa è diventata anche mia, perché qui posso studiare. La mia Lombardia ha già alzato la testa e supera la crisi con l'export dell'industria meccanica. La mia Lombardia, nonostante tutto, è tra le regioni più virtuose d'Europa. Nella Lombardia che ho in testa i servizi funzionano per davvero e i miei figli hanno spazi per giocare. La tua Lombardia è anche la mia Lombardia, la Lombardia che voglio migliorare, perché la mia Lombardia merita più rispetto, vuole una riduzione delle tasse, vuole più crescita, più... Ci eravamo posti l'idea di scoprire quali istanze di autonomia possono esistere in Italia rispetto a quelle più note, più calcate dalla cronaca, come appunto i referendum che ci saranno il 22 ottobre per il Veneto, per la Lombardia, memori delle drammatiche immagini che vengono appunto dalla Catalogna. Abbiamo cominciato a capire che esistono un'infinità di piccoli desideri di autonomia, li ricito tutti: la terra d'Otranto, il palo del lago di Garda, la Basilicata, e andiamo avanti con Giuseppe. Sì, pronto? L'ascolto. Sì, mi senti? Sì. Sì, ascolti, io volevo dire una cosa, no? Che potrebbe essere l'autonomia proprio delle regioni, in modo che ogni regione lavora per la propria città, così avrebbero più motivazione. Cioè, no? Ognuno per conto suo, cioè, dovrebbe, sì. Forse non tutte vogliono, però... Bisognerebbe essere solidari anche tra di noi, perché non è giusto... Ma questo è il contrario della solidarietà, se ognuno per conto suo... Ogni regione mette uno steccato e non vuol più vedere gli altri. Sì, però quello che io vorrei dire è di aiutarci insieme, di vedere le cose per dopo alla fine avere un bene comune, no? Nel momento di qualcuno... Vabbè, ho capito, lei vuol fare un grande girotondo, viva la colomba della pace, via dicendo. Non è in tema, mi scusi. Matteo, buongiorno. Sì, buongiorno. Non voglio questo oggi dichiarazioni filosofiche, casi reali. Matteo, lei cosa ci propone? No, casi reali. Da anni c'è un gruppo che sta cercando di organizzare un referendum consultivo sulla separazione totale della provincia di Foggia, quindi tutto il Gargano, per chiedere l'annessione al Molise. Sarebbe fantastico, cioè tutta la Capitanata passa in Molise. Infatti il favoloso, diventa una super regione. La nuova regione prenderebbe il nome di Moldavia. Tipo Moldavia. Sì, solo che Moldavia, non sono io un fautore, io sono il contrario, però ricordavo questa notizia letta e confermo che ancora a giugno il presidente di questo movimento ha portato sul tavolo del Presidente della Repubblica Mattarella la richiesta, perché pare che ci sia comunque la totale adesione di tutti. Fa la Moldavia, che rimane della Puglia? Bari. Bari, Taranto e Brindisi. Capirai. Bari, Taranto e Brindisi, quella diventa la Puglia. No, la mia era solo per portare questa. No, è interessantissimo. Sono contrario a... Sì, però che esistono queste cose, hanno detto. Esiste anche la Moldavia, oltre il palo del lago di Garda. Moldavia. Storia vecchia, è storia che da anni stanno... Non sono mai riusciti però, diciamo, ad arrivare a fare un referendum. Assolutamente no. E secondo lei la gente sarebbe d'accordo? Beh, i pugliesi non tanto, ma gli altri sì, grazie. No, si prendono una bella fetta di roba, lo so. Thomas, grazie. Allora, io vorrei separare un territorio. Io vivo a Cremona e sì, nella proprio centro della Fiume Padana. Qui c'è pieno di... È la terra delle tre T, Cremona, o sbaglio? Sì, certo. E quindi è una zona fortunata. Ecco, allora, e perché si vuole staccare da questo paradiso terrestre? La sfortuna di questa zona, che io per esempio abito in un paesino, sono tutti paesini di 2-3 mila persone, ci sono 30 mila maiali, 20 mila polli in paesini di 2-3 mila persone. Questa è la, ma mica la... avuto dal referendum i maiali e i polli? Io voglio fare un referendum, un discorso, cioè io vorrei separare un territorio inquinato da un territorio non inquinato, cioè io tempo fa ho esatto. Ma inquinato da cosa? Diciamo dai rifiuti dei maiali, sì, che puzzano. Beh, rifiuti dei maiali, perché dopo sui campi ovviamente danno fitofarmaci, danno diserbanti, tutte cose. Poi l'odore di cacca di maiale si sente quando cambia il vento, va lontano. Sì, è pesante. No, ma come fai a isolare anche... Sono veleni silenziosi. Ma come fai a isolarlo anche dal punto di vista olfattivo? Una cupola di plexiglass, come fai a isolarsi? No, aspetti, allora tempo fa io ho ereditato un pezzettino di terra, io vorrei seminare, fare un'attività pulita, allora io non inquino l'altro, il mio vicino che usa diserbanti, però lui non deve inquinare me, mi capisce? Ma le faglie si inquinano lo stesso, sottoterra passa il veleno. Va bene, ma io non inquino lui. Allora lui non deve inquinare me. Sì, in teoria anche. Quindi è un discorso di diritto. A me piacerebbe isolare il suo orticello, il suo orto. Ecco. E espanderlo a macchia d'olio in tutta Va bene, proviamo, vediamo quanti siamo. Vediamo quanti siamo. Allora, Ezio, sentiamo Ezio. Ci abbiamo proprio 30 secondi. Chi vorreste? Dunque, io vorrei fare un appello a Milucchesi. Noi altri siamo stati l'ultima Repubblica Libera d'Italia, a parte San Marino. Ora è l'ora di finirla, di farsi sfruttare da quell'altri. E gli altri chi sarebbero? Chi la sfrutta, Lucca? Tutti, si sfruttino tutti, perché noi altri siamo persone serie. Ma poi Lucca è una bella città, lo dice anche il nome stesso, si mangia, si beve, si cucca. È chiaro, esatto. E dovreste farvi sicuramente l'autonomia. Beh, abbiamo trovato... Autonomia di Lucca. Lucca libera. Vorrei piazzare le gabelle in sul foro di Pisa, verso Firenze, verso Viareggio, e tornare a essere liberi. Che ne dite, lucchesi? Armiamoci e partiamo. Benissimo. Pronti a sfidare il manganello dei pisani, anche i lucchesi. Beh, abbiamo visto che in Italia ce ne sarebbero di cose a dire, altro che soltanto i veneti e i lombardi. Alla prossima.